wondered how to sing my song, yeah. Rastafari, say again. Radio Under Rasa 97. Le 21:31 anche per oggi, 9 novembre del 2020, disordere sulle frequenze di 87.9 di Radio Onda Rossa e naturalmente sul sito www.ondarossa.info. Contenitore che avrà nelle sue note gotiche, neofolk e naturalmente molta molta elettronica. www.ondarossa.info è per l'appunto il sito per ascoltarci via streaming. ondarossa@ondarossa.info l'indirizzo di posta elettronica. Domani sul sito e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disordere e anche quella di Radio Onda Rossa ci sarà la registrazione di questa trasmissione. Già abbastanza frequentato lo streaming, per cui Maya dalla Sardegna insieme a Nicola Locci, fedelissimi. Nicola Locci, quest'ultimo di Stigmate ed Hexagonal. Da Milano Laura, da Bergamo Francesco Cornello. Valerio Michetti della Grazia Obliqua, qui a Roma. Come Marco, Daniele Santagiuliana da Valdagno, provincia di Vicenza, se non sbaglio. Ancora la Grazia Obliqua con Alessandro Bellotta, la voce della Grazia Obliqua. A Firenze Antonio Zoviet di Omicidio. Emanuele Fais e Pioggia d'Ambra, Isetual da Milano. Il maestro Eloquence Recycle di H501L. Jean-Claude Bertaud, naturalmente dalla Val d'Aosta, anche lui è un fedelissimo di questi spazi. Bene, dunque, mettiamo da parte i Joy Division, la nostra sigla ormai storica, ricordo Disordere, uno spazio che esiste dal lontano 2002. Si andava in onda di venerdì pomeriggio, per una serie di questioni ci siamo spostati la sera. 1992 invece è l'anno di nascita di Prove Tecniche di Trasmissione, che quindi ha 10 anni più rispetto a questo spazio. Spazio che inizia con l'ultimo lavoro di Orplid di Uwe Nolte e Frank Macau, progetto che nasce nel grosso calderone del neofolk per poi gradualmente trasformarsi ed arrivare a una miscela molto interessante di elettronica e neofolk. si chiama Deus Vult. Lo concludiamo con le ultime due tracce, Das Abendland e una cover curiosissima di un vecchio brano di Neil Young dal nome Cortez. Finiva in questo modo così mesto Deus Vult, vera e propria gemma preziosa per quanto riguarda gli Orplid di Uwe Nolte e Frank Macau. Dopo 12 anni di silenzio tornano con questa, con questo splendente veramente album, che però ce li dà in un contesto abbastanza diverso, arricchito da passaggi molto elettronici, anche se di fondo, scavando, l'anima rimane quella neofolk, la struttura forse è quella, ma veramente è arricchita da preziosissimi passaggi elettronici. Das Abendland e Cortez, che io personalmente non conoscevo, essendo proprio un non conoscitore di Neil Young. Ammetto proprio il disinteresse che ho sempre avuto verso quel tipo di musica negli anni 70. Non so se qualcuno avrà riconosciuto questa cover di Neil Young e Crazy Horse. Una mossa che ci ha spiazzato effettivamente da Orplid, non me lo sarei mai aspettato. All'inizio questa era la prima traccia, così morriconiana. In altri frangenti invece c'è un basso che pulsa dark wave, anche le tastiere talvolta possono ricordare i passaggi alla Joy Division. Quindi neofolk, dark wave, elementi che ritroviamo in un progetto italiano, esattamente qui di Roma, un progetto a noi molto caro, in attività da circa 3 anni, si chiama La Grazia Obliqua. La Grazia Obliqua, che avevamo lasciato con diciamo l'album di esordio, quantomeno sulla lunga distanza, che fu Canzoni per tramonte e albe al crepuscolo dell'Occidente, uscì l'anno scorso. Il vero esordio fu nel 2017 con un EP che portava il loro stesso nome. Novità invece di questi giorni è un altro 4 tracce dal nome Oltre, che ce li conferma più o meno con la loro cifra stilistica. Salutiamo, nel caso fossero all'ascolto, e quindi ci ascoltiamo la title track Oltre e Piovono pietre. like a bird on the wire. Canta poeta, canta. Il tuo mondo, il tuo piccolo mondo, sceso impervio, difficile restare in piedi, su gambe ferme, with measured steps they walk in line. Canta poeta, canta. Siamo abbracciati, affamati, dispersi, mentre danziamo lungo gli argini, schiena dritta, nessuna resa. Fino alla fine del mondo. Until the end of the world. Canta poeta, canta. Amore, tutto questo amore, dolcissimo, violento, disperato, fermati adesso, la senti come scorre, dolcissima, violenta, disperata, questa vita. Questa vita, questa vita, questa vita, questa vita. Questa vita. Graditissimo il ritorno per quanto riguarda la Grazia Obliqua, progetto qui di Roma, con questo EP di 4 tracce dal nome Oltre. Ho visto delle foto e l'ho visti bazzicare la contemporanea.